La mucca non dà latte. Giacomone bacia Maometto. Le scarpe mi stanno strette. Il pappagallo è rosso. L'aquila vola. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Buonasera! Facciamoci un applauso! Un'edizione speciale questa di POC che arriva ai suoi 18 anni, pensate un po', e partiamo proprio con le stesse parole di Radio Londra che accompagnarono il momento della liberazione dal nazifascismo 80 anni fa. E sapete che questa è un'edizione un po' particolare, all'insegna della sobrietà. Infatti ci spiace dirvelo, ma abbiamo un paio di comunicazioni importanti da darvi al riguardo. La prima è che il bar, per garantire la sobrietà di tutte e tutti, a breve chiuderà. Le pizze saranno bianche, sobrie, perché il rosso del pomodoro potrebbe infastidire qualcuno. Quartetti d'arco, avete visto una serie di artisti strepitosi in cartellone, ma abbiamo optato per dei quartetti d'arco e una conduzione sobria. Quindi agevolerei a questo punto l'ingresso della collega, della mia co-conduttrice. Entra pure Demetra, un applauso perché è la prima volta sul palco di POC. Partigiani in ogni quartiere, ciao! Sobrietà è il mio secondo nome, d'altra parte. Ma permettetemi, se posso, permettetemi di citare subito il Papa. Cosa avrebbe così detto in questo caso? C'è troppa frociaggine, è chiaro. Va bene. Allora, a proposito di sobrietà, abbiamo tutta una serie di regole giusto, che dobbiamo andare un attimino a passare in rassegna, a controllare. Allora, prima cosa, bandiera a mezz'asta. Ma noi non abbiamo l'asta, non abbiamo neanche la bandiera, abbiamo soltanto un trabattello e il palco pericolante di zampe. Io pensavo che fossero i tacchi, invece no. Il palco è una chiara metafora della situazione del nostro pianeta in questo periodo. Questo presente che scricchiola, esatto, sotto i nostri piedi. Precario. Poi, cioè, altra cosa, consultare gli organizzatori e gli sponsor. Ma non abbiamo una lira, siamo tutte volontarie. I permessi mai avuti e quindi mai richiesti. Ma perché servono permessi di no, solito. Su questo poco secondo me è bella scafata. No? Quanto al minuto di silenzio, ecco, ci siamo qui interrogate. Sì. E abbiamo pensato di rivolgere direttamente a voi la domanda. Giusto, democratiche. Chiediamolo. Lo facciamo, no? Il minuto di silenzio. Io devo dire che empatizzo un po' con il Papa, che è pur sempre un uomo con la gonna, E quindi la risposta è a gran voce: sti cazzi, facciamoci sentire che mai come ora bisogna stare zitte. Quindi se Gli 80 anni di resistenza. Cosa non si fa per oscurare il 25 aprile? Sì, missioni in Uzbekistan, la morte di un pontefice, veramente cattivo gusto. Ma noi Demetra non facciamo un passo indietro, no, anzi andiamo avanti e facciamo salire sul palco la prima band di questa edizione, ma loro in realtà aprono poca da un sacco di tempo, praticamente sono nati con partigiani in ogni quartiere. Tu frequenti i centri sociali? Ma certo, cara, sono una draga militante, perché mi hai preso. Quindi li avrei Io incontrati... lancio il tacco al posto del San Pietrino, però. Quindi li avrei incontrati di sicuro a ZAM, che è una colonna portante di partigiani in ogni quartiere. Li lanciamo? Sì, sul palco il rap Caverna Posse! Ciao ragazze! Fate un po' di casino, raga, 1, 2, 3! Prego, cara. Chiesa Rossa nella casa. Siamo Rap Caverna Fucking Posse e oggi abbiamo con noi un ospite speciale, DJ Lara. Quindi fate un po' di casino per la nostra DJ. 1, 2, 3. E abbiamo anche uno dei candidati al prossimo conclave, Papa Testa Malla Primo. Fate un casino. Intanto facciamo la fumata bianca. Sì. Sarà per legalizzare la marijuana nella Città del Vaticano e da lì Roma. Beh, intanto grazie a tutti i compagni e le compagne che sono nell'organizzazione questa mattina prestissimo a fare sbattimenti, a tutti quelli che hanno banchetti, bancarelle, chi più ne ha più ne metta, e a tutti gli antifascisti e le antifasciste che sono scese in piazza questo 25 aprile. Questa anche la fede politica dei fascisti? No, questa, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica. Sembra assurdo quello che dico, ma è così. Il fascismo, a mio avviso, è l'antitesi delle fedi politiche. Il fascismo è in contrasto con le vere fedi politiche. Non si può parlare di fede politica parlando del fascismo, perché il fascismo opprimeva tutti coloro che non la pensavano come lui. Chi non era fascista era oppresso, e quindi non si può parlare di vera fede politica chi opprime le fede altrui e chi combatte. Io combatto, ma combatto sul terreno democratico. Diglielo. Un attimo di caricamento. Siamo tutti antifascisti! Niente, non è andata. Cominciamo pure la funzione. Tagliano sugli assorbenti perché in grembo covano serpenti. Il ventre molle dell'Europa borbotta, ormai non basteranno i fermenti. Ma ferri roventi come il ferro da stiro rowenta sopra questi assi di cessi, fuori dalle maniche gli assi di bastoni che poi distruiamo i processi. Per dieci chi si ispirano a Nas, cento si ispirano al Nasdaq. Ma vengono via come stacca, attacca se uno tira l'altro, Assad. Fuori tutti dalla mia caverna come Shrek versus Lord Farquaad. RCCCP, Soviet Punk, fedeli alle linee di Nas, gas, gas, gas. Siamo la steppa della steppa contro Capitan Findus. Per i capitani di domani rifarsi alla casta non farà di loro degli Hindu. Oh no. Lo stile che ci colonizza è americano, blu ba come Pingu. Hanno dovari a piacimento, mi riallaccio alla teoria delle stringu. Nuovi input, fade output, per avere cut, senza auto, senza out, out, out, senza out. Quanto basta ad incastrare l'umlaut col Müller Turgau. Fate l'amore con il favore di chi vi metterebbe knocked out. Fate le barre con fervore da leoni da tastiera in lockdown. Nulla è certo, accetto il rischio, mi godo l'equilibrio sul precipizio. In prima linea, gusto adrenalina, tipo sempre in giro fin dalla mattina. Passata la soglia dei 30, sapessi le barre che ho in corpo. Se. Di nuovo che trovo me stesso sul tempo davanti a una penna d'un foglio. Credo ancora nelle crew più che in ogni altra cosa. Rap caverna speranza nel buio che avvolge ogni cosa. Il mercato musicale vende fascino del crimine. Chi è senza prospettive ma con finte vite al limite. Preoccupazione nascosta in un mare di rabbia. Meglio che alziamo la posta o la solfa non cambia. Mille domande e nessuna risposta. Castelli di carte o di sabbia. Mi faccio fare senza farlo apposta. Automatismo che ingabbia. Ascolto Faber, sono fan di Luke Skywalker. Capelli grigi e testa altrove come il giovane Holden. All'alcol con la faccia verde, sempre fuori dal gregge. L'oroscopo è così in culo che in faccia vedi le schegge. Spingi nell'impianto questa merda. La caverna sventra, fa saltare in aria ogni caserma. Bugneo, un assalto al centro, una bomba in Parlamento. È al momento del giubileo. Spingi nell'impianto questa merda. La caverna sventra, fa saltare in aria ogni caserma. Bugneo, un assalto al centro, una bomba in Parlamento, è al momento del giubileo. In lontananza, che mobiliti la massa, di queste tracks. Rap caverna crede terre questa siccità. Sono barri con più stile allucinati fra. Sopra quarti, se colpi dai, sferzati con il mic. Schillati più di quanto ti aspettavi tu. Rime cool, tipo massi di Kenshiro su ogni groove. RCP più sconvolti nella stanza. Qui si taglia rime precise come se Ramani c'ha farfalla. E non servono gli effetti bro, per capire che spingiamo questa roba sempre con un tot di amore. Metti nel tuo impianto questa merda. È la rap caverna setta che ti dà lezione. Con la testa e mic in dotazione, invoca il nome RCP che insegna questa nuova religione. Peace. Questa città qua mi spaventa. Ho avuto già crisi di mezz'età prima dell'età dei 30. Mille anni che sperimenta, occhi liberi. complesso, cadi come Biden. Bambini col complesso e Gigi Ratt attorno Kaiden. Spingi nell'impianto questa merda, la caverna sventra, fa saltare in aria ogni caserma. Un mio, un assalto al centro, una bomba in Parlamento, è al momento del giubileo. Spingi nell'impianto questa merda, la caverna sventra, fa saltare in aria ogni caserma. Un mio, un assalto al centro, una bomba in Parlamento, è al momento del giubileo. Rap caverna fucking posse nel posto, grado sogno ci sei o no, 1, 2, 3. Non abbiamo sentito un cazzo, ci siete o no? 1, 2, 3. Yeah, potete anche fare due passi avanti, raga. Noi non vi mordiamo. Il bello della musica è che quando colpisce non fa male. Peccato, peccato. Eh sì, effettivamente. Ah. Cicilla. Andiamo subito con Aurora, così? Ah. Su, su, su, su, su, su. Su, su, su, su, su, su. Ah, sei. Aurora dice Antifa, sottoscrivo. Non esiste fascismo costruttivo. Mi sudra per armati, fac privilegiati. Offrire prospettiva a un luogo che ne è privo. Aurora contro buio, pesti in posti desolati. In mezzo a gente sola, ragazzi rassegnati. Si sfrutta la paura, non si comprende la rabbia. Si nasconde la tristezza, la gioia di chi sta in gabbia. Cresciuti con la crisi sullo sfondo, dove tutto ha un costo. Contro chi ci vuole a fondo, stiamo al nostro posto. Lottiamo noi, non siamo uguali, parli chiari. Proporre alternativa, Aurora dice partigiani. Vediamo le radici nelle crepe di sto mondo infame. La necessità da forza, gusto di chi ha fame. Questo mondo non è l'unico possibile. E a dirla tutta non è manco il più appetibile. Indomabili ribelli come Gino Gatti, compatti avanti sulle orme dei giganti pochi istanti. L'amore ha vari aspetti però l'odio altrettanti. Lo riservo per chi sputa l'uomo, non per i briganti. Quelli come noi non ti sorridono, tu facci caso. Denti stretti come pugni sul tuo naso. Restiamo compatti come i pezzi di un puzzle per un disegno più grande, senza aspettare il caso. Chiamo padre fortune però anche omini e lupus. Oggigiorno la violenza su un tono più cupo. Nuova guerra tra gli oppressi come i cuzzi con gli Utu. Sarà guerra tra le classi o sarà tutto perduto. Io non sono fatalista, non mi fermo alla memoria. La mia scelta è più complessa di sconfitta o vittoria. È un processo che altalena tra dottore e boia. Radici secolari come una sequoia. MI su circonvalla, a 1000 gradi Fahrenheit. Con l'anima dannata e suono dannata. RCP è come grappa barricata. MI su circonvalla, a 1000 gradi Fahrenheit. Con l'anima dannata e suono dannata. RCP è come grappa barricata. Siamo usciti dall'inferno per rivedere le stelle. Ma se sei uscito dalla fogna solo per rivedere le sperle. In un'invasione di razze l'ignoranza non è l'unica festa. E se la scuola non gli è bastata c'è chi li concerà per le feste. Cammino veste, chiamino teste del vuoto dentro le loro teste. Chi parla violenza non sente niente. Io non ho tempo da perdere. La memoria è costante ricostruzione del passato in vista del bisogno presente. Viene da chiedersi in che mani l'abbiamo lasciata. Dove il sangue di vittime e carnefici insieme si lava. Dove può sputare sentenze chi ha la bocca alla baba. Dove restano 4 studenti che mandano 6 fascisti a casa. Agli a dividerci noi meno puri più duri. Tra di noi non si fanno differenze, parlano anche i muri. Perché ciò che vedono non siano più solo soprusi. Vuoi combattere la paura? Prima fissa la d'occhi chiusi. La violenza degli stati, massacra tafri. Pulizia etnica, tattica, industria bellica, sfama soldati. I soldati, succubi di soldi, sparai colpi di carmati su corpi disarmati. Militare, militare, figlio infame che ha fama di comandare. Ma invece obbedisce perché non sa ragionare. Sogna la vita a stare strisce nei ferrodestri italiano. Alla rumena in casa che pulisce e mangia sempre da che babbaro. Le scelto per lavoro o l'hanno scelto loro. Vuoi vivere nel decoro, spaccia morte a peso d'oro. Mercenario alla corte del più forte azionista. Che non rischia investimenti ma stipendio al terrorista. Cane bastardo con guinzaglio, tardo. Facile premere grilletto e centrare bersaglio. Sbaglio se non scaglio la pietra. La resistenza non arretra. Senza pietà, rap caverna pietra. MI su circonvalla, a 1000 gradi Fahrenheit. Con l'anima dannata e suono dannata. RCP è come grappa barricata. MI su circonvalla, a 1000 gradi Fahrenheit. Con l'anima dannata e suono dannata. RCP è come grappa barricata. Wow! Un po' di casino per DJ Lara nel posto. 1, 2, 3. Ok, questo pezzo che faremo adesso direi che è abbastanza attuale e direi che che, dato che comunque il 45 non ha segnato la fine del fascismo, i temi sono abbastanza cose in cui potrete ritrovarvi, in cui ci ritroviamo abbastanza. Il beat l'ha offerto gentilmente il nostro fratello più grande, Esa a.k.a. El Prez, from Gente Guasta OTR. Chi conosce Esa a.k.a. El Prez? Sulla mano! Un po' di casino per Esa a.k.a. El Prez! 1, 2, 3! No, non è questa, scusate, ho sbagliato. Colpa mia, colpa mia. Vabbè, sti cazzi. Vorrei un dito medio in alto contro tutti quei cazzo di governi capitalisti imperialisti di merda che speculano e sacrificano ai loro scopi centinaia di migliaia di civili, donne, uomini, bambini disarmati. Fanculo il governo degli Stati Uniti d'America. Fanculo il governo di Israele. Fanculo la NATO. Questa è né Dio né nato, né Dio né nato, né Dio né nato, né Dio né nato, né Dio né nato, né Dio né nato, né Dio né nato, né Dio né nato, né Dio né nato, né Dio né nato, né Dio né nato, né Dio né nato, né Dio né nato, né Dio né nato. Nato quasi 2000 anni dopo il coso degli stronzi. Se mi guardo attorno noto che ce ne stanno ancora molti, invischiati in una rete di sangue tipo guerra dei mondi. I tribodi selezionano, assimilano e scartano i nostri corpi. Un virus è la speranza, non me la ricordo, quindi lo stesso un freno. Lo pongo questa roba che galleggia sul Mar Nero. Vedo dal cielo che cadono le bombe da un cimitero. Un cazzo di macello e qua posso soltanto prendere piede. E lo stesso continuo 16 barre a frista. Faccio questa roba che ogni giorno è come stare nella stanza dell'enigmista. Cade un cazzo di bombardamento a tappeto, siamo la polvere messa sotto da dietro, non la puoi vedere a meno di affacciarti. Posso fare questa cosa, l'importante è non alienarsi, l'importante è avere pronte le armi, l'importante è stare qua sempre con qualcosa da farsi. Nato esattamente un anno dopo i fatti di Capaci, ho visto quasi 20 governi fatti di incapaci, mafiosi, fighetti, cocainomani e fasci. Dal dopoguerra al potere grazie agli sbirri e le stragi, assassini degli Stati Uniti, da sempre pavidi al potere non ci vanno i migliori, sono i più avidi. In questo mondo di follia io non vedo Davidi, non cambia l'equilibrio di forze, cambiano gli abiti. Non so dove abiti ma so come vivi, si capisce se capisci da come respiri, si capisce che capisci se resti con i tipi schivi, lontano dai distintivi, gli atteggiamenti da divi. 13, 12, ovunque lo scrivi, aggressivi, sabotiamo meccanismi repressivi, obiettivi ne abbiamo, trasmettiamo finché siamo vivi. Un mess con il rap tipo un pacco pieno di esplosivi. Condannato, se nasci nel peccato, prega il buon mercato chi ci ha marchiato. Senza bestia ma il carro non va anche se armato. È conclamato che un impero morente non viene acclamato. Noi non ci siamo né con Dio né con NATO, il nemico è lo Stato. Nato un anno dopo il crollo del muro di Berlino, 30 anni dopo Casa Bianca contro Cremlino. Sono pronto di clino bevendo delirium, prima del lancio a pizza con la Molotov il mio cilum. L'erba del vicino è sempre più fresca, lo è ancora di più se ci posso fare la cresta. Il potere calpesta, innesca la tresca, pur di non scontrarsi direttamente crea una guerra. Cazzo te ne dello Yemen, ormai ne parla anche la tele, esportiamo stupri e morti in serie. 4 miliardi per la fabbricazione di armi a sti 4 bastardi, per fermarli bisogna ammazzarli. Aumentano gli affitti, non aumentano i salari, e i nostri soldi vanno nelle spese militari. Vogliamo la pace, abbiamo rivoluto i Marò, sono i veri figli di patria, l'Italia chiamò. Sono nato nell'anno della caduta dell'URSS, cresciuto in un mondo che ne ha accusato la mancanza. Io sbirri secondini, ogni divisa blu, società dell'abbondanza in cui niente è abbastanza. Il tempo sembra cambi tutto e poi non cambia un cazzo. Passano gli anni ma non passa l'imbarazzo. Ancora non sopporto certi convenevoli, chi non parteggia ai soprusi dei forti sui deboli. Capitalismo decapita un top pro capite, lezioni di crescita a talismano, ma il futuro è instabile. Ci vogliono instancabili tutti dal primo all'ultimo. Un ultimatum, fanno la guerra chi lavora cottimo, ma inquina più miliardario di un quartiere, è desolante come sul bordo del cratere. Chiamano guerra con un altro nome, sembrano canne di cannone, sono ciminiere. Sei condannato, se nasci nel peccato, prega il buon mercato chi ci ha marchiato. Senza bestia me il carro non va anche se armato. È condannato che un impero morente non viene acclamato. Noi non ci stiamo né con Dio né con NATO, il nemico è lo Stato. Merde. Rap Caverna fucking posse. Yeah. Né con Dio né con NATO. Ok, questo era il pezzo che dicevamo prima. Il beat è abbastanza leggendario, se qualcuno lo conosce può canticchiarlo con noi. Un saluto anche a DJ Vigo, a Rapolara, a tutti gli OTR. Uno per la crew, due per la mente mia, tre mando in culo istituzione e polizia, quattro per chi combatte con il pugno in alto, se cerchi un cambiamento non puoi delegarlo a un altro. Lotta armata, microfono, baionetta, ascolta RCP è come riavvolgere la cassetta, è l'istinto che diventa knowledge, è una mole di rime scritte la notte, è un dito medio che si alza verso chi grida più forte, la domanda più giusta chi ricerca risposte, mi pop è ciò che ho scelto se non sai che scempio, mi so dar buon esempio nello schifo mi dà un tempo, sulla divisa non ci sputo a stento, everyday struggle di sbattimento, il confronto non lo reggi neanche un momento, non cerchiamo lo scontro ma un miglioramento, se armo la voce game over, c'è sopra una croce, scendi strada e lotta armata, sono rime tagliate con skills affilate come una crociata, rap caverna banda sul beat, c'ho un'arma bianca se ho in mano il mic, distrai orizzontale tipo striscia pedonale, tu rimani a mezzo metro di distanza, a colpi di 4 per 4 barre si rappa, apriamo in due la carne fra scappa e alziamo i gradi nella stanza, perché si può tangere anche l'aria rarefatta, abbiamo le pozioni, la pura alchimia droga, tipo recaggio estremo di vecchia nuova roba, prendi appunti per la stesura, so tecnica con più punti di sutura, che siamo dei grezzoni si amice, sotto il ponte di baracca chi la dura la spinge, il dottore la misura, dai 33 giri ai 45, la giusta cura contro la diffusione del cringe, questo mercato sopra le righe non mi convince, c'è chi mi ha tirate così tante da aver visto cadere il naso alla sfinge, prossimo contest male lingue, ci vuole più dopamina, chile spremuta di meninge, potrai vincere una battle ma non la guerra, capitali da distruggere ci sarà sempre una riserva, unità agente e guastatori a rap caverna, autorizza l'uso di barre non consentite dalla ginevra dei rap, Nazioni Unite, la buona nuova, lasciamo i rampolli la corona per covarci le uova, per noi non è cosa, la mia famiglia è muschiosa, resto umido sulle teste dei re, ci pisceremo sopra, sempre pronto per abbattere il tuo divo, rap caverna contro le chiacchiere distintivo, non pretendo tu capisca quello che io dico, ho sottratto l'io ragionando in collettivo, odio il suo circo mediatico finto e non pratico, mentre faccio il rap spinto rito satanico, schifo vedendo tuo schifo di video roleggio con barra cambio automatico sul palco sopra. Rappo un alito, non lavoro, non scappo, ma gravito, non ho un contratto, manco dove abito, lotta armata, flotta, barricata, fotta, corazzata, rap mortal combat contro spocca forzata, questo è per chi vive in stazione, sotto il portoge in soffitta, per la famiglia, per la clicca, vaffanculo la tua vita, la tua villa, con guida IPA, rimaniamo dietro al cancello gatekeeper, consumato dalla fretta, più ogni attimo è sprecato, come il latte che hai versato, su cui piangi disperato, ritmato come il flusso che scorre sopra le barre, gira il micro ad un amico come girano le porre, alla larga da sabbioni e copertoni, ti scavalco con lo stile cavalcando sti campioni, l'estro se destra ad ogni rima che componi, ad ogni frista che improvvisi per uscire dai copioni, ogni ticket io dell'orologio rende merda il pregio, mi decompongo in questo fango pronto al peggio, divento humus in caverna quando sumus grema il surplus, meglio far la fame che l'infama anche se famous, opinabile attitudine alla vita, cerco la mia via d'uscita, coi fratelli dalla cava autogestita, mi ispira a fondo il mondo e di ogni stimolo mi riempio, con rosso bandierone nel tempio resto corroso dal tempo, ci hanno detto che ci siamo abbastanza allungati quindi ci togliamo un po' di tracce e arriva l'ultima traccia, chiama se dalla parte degli ultimi. Sì, fra l'ultima è l'unica traccia che possiamo fare. Ok. Allora, la differenza tra noi e loro è che noi siamo dalla parte degli ultimi, loro stanno dalla parte di chi gli conviene. Ok? Questa è dalla parte degli ultimi. Ah. Sì, sì, sì, sì. Vedo un sacco di cose, ma ce n'è una in particolare che vorrei vedere. Su, prima possibile. Su, su, su. Voglio vedere il potere gestito davvero da chi non ce l'ha. Tacere il giudizio borghese, culo coperto dall'iniquità. Mi chiedono la mia opinione, la risposta è banale, frate. Sto dalla parte degli ultimi, come Fabrizio De André. Mi alzo e rido mentre riempio la mia caffettiera. Sì, ah, che buono un caffè, lo so. sanno fare persino in Siberia. Capisco uno zoca, ho imparato a cadere judoka. Buttato nell'acqua speriamo che nuota, autostima ne ho poca. Svegliato presto, fuori fa freddo e poi non c'è in giro nessuno. Vedo allo svelto, metto berretto, sorrido e penso fanculo. Passano 100 anni e credo ancora nel sogno di Lenin. Se mi guardo intorno vedo uomini vestiti da Lenin. Conto cicatrici, veni figli bici. Fanno tutti i gangsta e penso ma che cazzo dici. Ho comprato casa, sì, lo metto coi soldi del papi. Ho ereditato presto, avrei preferito evitarmi lo sbatti. Ansia di perdersi, paura di aversi. Lo sguardo fisso, occhi negli occhi, pure per ore ma senza vedersi. Resto in silenzio mentre rifletto e studio espressioni del volto. Come amicene, facce di bronzo messe sul viso del morto. La storia la scrive chi ha vinto, non basta seguire l'istinto. Il risultato è pure scontato, lo vedi ma manco dipinto. Voglio vedere il potere gestito davvero da chi non ce l'ha. Voglio vedere sti soldi riempire le tasche di chi non ce li ha. Voglio vedere i diritti riempire le vite di chi non ce li ha. Voglio vedere Salvini e Meloni annegare nel Mediterraneo. Voglio vedere il potere gestito davvero da chi non ce l'ha. Voglio vedere sti soldi riempire le tasche di chi non ce li ha. Voglio vedere i diritti riempire le vite di chi non ce li ha. Voglio vedere Salvini e Meloni annegare nel Mediterraneo. Dicono che sono strano, per fortuna purtroppo lo sono. Sembro un ragazzo tranquillo, silenzio prima del tuono. Tu con il ferro, video musicale. Noi con l'acciaio, piano quinquennale. Non si può più parlare di classi, il mondo è cambiato, io non credo proprio. Tu sogni i negozi coi saldi, telefono nuovo, io sogno l'esproprio. La forca per l'ultimo papa, budella dell'ultimo re. Si spera nel regno dei cieli, ma intanto giustizia sociale non c'è, non c'è, non c'è. Per fare sta roba bisogna sporcarsi le mani. Sporcarsi le mani. Per fare sta roba Soviet possiede pannelli solari. In aria come aeroplani, zero confini, Yuri Gagari. Per sti scemi neoliberisti, Siberia colli come costari. Dimmi qualcosa di romantico, Leningrado. Nazi alla conquista, morti sul selciato. Il tuo decoro, gabbia sbarre d'oro. Ho un flow che ti rapisce, come Aldo Moro. Voglio vedere il potere gestito davvero da chi non ce l'ha. Voglio vedere sti soldi riempire le tasche di chi non ce l'ha. Voglio vedere i diritti riempire le vite di chi non ce l'ha. Voglio vedere Salvini e Meloni annegare nel Mediterraneo. Voglio vedere il potere gestito davvero da chi non ce l'ha. Voglio vedere sti soldi riempire le tasche di chi non ce l'ha. Voglio vedere i diritti riempire le vite di chi non ce l'ha. Voglio vedere Salvini e Meloni annegare nel Mediterraneo. E allora, partigiani in ogni quartiere 2025, fateci sentire un po' di casino. Fate un cazzo di casino anche per DJ Lara, che oggi ci ha accompagnato per la prima volta sul palco. 1, 2, 3. È un bel casino anche per gli organizzatori di questa mega situa, che è qua per farvi divertire e per riflettere insieme. 1, 2, 3. Grazie. Siamo tutte antifasciste. Siamo tutti antifascisti. Siamo tutte antifasciste. Posse! Grazie, come state? Dai, va dai, tutto andiamo bene? Avanti con questa 18ª edizione di POC, 80 anni dalla liberazione, e c'è tutta una riflessione che vogliamo quest'anno come collettivo portare sul palco, perché ci stiamo un po' chiedendo, adesso che si compiono 18 anni, adesso che stiamo diventando grandi, contro che cosa dobbiamo combattere, no? Qual è un po' l'identità anche dell'antifascismo oggi? Per la prima volta, ve ne renderete conto magari alla fine della serata, ma per la prima volta sul palco di POC non ci sono né un partigiano né una partigiana, e questa per noi è una cosa, insomma, tosta, pesante. Sandra Girardelli, che vive e lotta con noi, è in Piazza Duomo, non ce la faceva fare la doppietta anche l'anno scorso, l'altro anno ci ha dato un racconto della resistenza che ci incantava, e quindi ci interroghiamo su come diventare grandi, come prendere in mano quel testimone, come farne una cosa nuova. Abbiamo qui una rappresentanza di una sezione AMPI che si chiama Audrey Hepburn, è un'intersezione partigiana, ci sono Silvietta, quindi Silvia, la Suso e Ilenia, ha compiuto da poco 5 anni e quindi a voi un po' portarci questa riflessione su questo 25 aprile. Sei, ce l'hai la tessera? No, non io ce l'ho. Io sì, sono fra le prime tesserate! Tesseratevi Audrey anche voi! Audrey Hepburn, colonna di POC! Caro 25 aprile, oggi compio 80 anni, non sei vecchio, non lo sei mai stato. Sei solo grande in tutti i sensi, di una grandezza che se apriamo le braccia non possiamo neanche misurarla. Chi ti scrive è una tua piccola nipote. Sono una sezione Ampi di solo 5 anni e tutti mi chiamano Audrey Ampi. Forse non tutti sanno che Audrey Hepburn, a cui è dedicata la nostra sezione, ha partecipato alla Resistenza in Olanda. Era una staffetta partigiana. È poetico il fatto che una ragazza così minuscola sia riuscita a dare un contributo così importante alla Resistenza nel suo paese. A volte penso che siano proprio le piccole cose a sorprendere e sovvertire i sistemi. Anch'io sono minuscola. Sono nata dalla fervida mente di alcune donne appassionate, innamorate, sognatrici, a volte anche un po' rompicoglioni, che un giorno hanno deciso che dovevo esistere. Sono di sana e robusta costituzione. Soffro però di alcune intolleranze, non alimentari, ma elementari. Non tollero la TAV, i CPR, il DDL, l'MSI, che anche se ora si chiama FDI il risultato non cambia, il Realm Europe, che siccome poteva urtare alcune sensibilità, ora lo chiamano SAFE, cioè Security Action for Europe, che più che un ossimoro è una vergogna. In generale non tollero tutti questi acronimi che trasudano disumanità e portano alla balbuzia del pensiero. Non tollero le abbreviazioni. Abbreviare le parole significa abbreviare la storia e confondere le idee. Genocidio, lo voglio dire forte, per intero, lo voglio urlare, anche se la voce si spezza tra una sillaba e l'altra. Resistenza. La resistenza non è una parola passata. Resistere è un verbo infinito e composto. Il mio resistere è infinito, sì, ma scomposto. Voglio resistere per la Palestina, per la Siria, per il Sudan, per ogni paese dove il potere economico e bellico polverizza i diritti umani. Voglio resistere con armi di istruzione di massa. Voglio impugnare la Carta del diritto internazionale e sfogliarla facendola detonare, articolo per articolo, che arrivi dritta al cuore, che ci svegli e renda presenti. Voglio imbracciare la Carta dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza. Voglio lanciarla ovunque, che rimanga appiccicata ai muri di tutte le città, perché sono le minuscole creature che possono cambiare e costruire un futuro più intelligente del nostro oggi. Sogno un battaglione umanitario che possa cancellare i confini geografici e che proponga la libertà di movimento come diritto universale. Caro 25 aprile, su questo palco molte partigiane e partigiani hanno parlato di te. E tutta la platea si fermava ad ascoltarli. Quest'anno mancano. Mancano le loro mani, che stringevano forte come a voler passare un testimone che con fiducia e coraggio raccolgo e faccio mio. Qualcuno dice che i partigiani non ci sono più. E io urlo che non è vero. La resistenza è viva, ora e sempre. Aprono, eccoci qua, grazie alle Audrey Ampi. Grazie tantissimo a Audrey Ampi, tra l'altro le trovate anche in giro, ci trovate anche in cucina, in Cambusa, insomma, ovunque. Diffuse. Siamo ora diffuse. Una richiesta che è arrivata negli ultimi giorni da parte di Refugees in Libia, che è un'organizzazione composta da rifugiati, richiedenti asilo e migranti, che vuole dare voce a chi ha vissuto l'esperienza terribile dei lager libici. Allora, ci è arrivata all'ultimo minuto questa richiesta, abbiamo trovato subito uno spazio, vi chiediamo uno sforzo, un po' di attenzione, perché ci sono diversi anche interventi politici, teatrali previsti. Allora, gli attivisti di rifugiati in Libia provengono da quei lager di cui ha parlato Demetra, sono richiedenti asilo e migranti e gestiscono una hotline gratuita e multilingue su WhatsApp che serve sostanzialmente a dare supporto immediato a situazioni di emergenza come minacce di suicidio, gravi privazioni di libertà, abbandoni nel deserto, problemi abitativi, eccetera, eccetera. Questa sera con noi accogliamo sul palco di POC l'intervento di Abdi, membro di Refugees in Libia. Insieme a Francesco di Mediterranea, no. Abdi, lasciamo Abdi, a te la parola. Ti lasciamo il palco. Buonasera a tutti. Io sono attivista dei rifugi di Libia, arrivata qua in Italia 3 anni, sono nata in Etiopia, arrivata 8 anni in Libia, con Libia sono arrivata con UNHCR, UNHCR de comunità di Sant'Egidio con aereo di Libia è qua. Però noi stiamo lavorando per rifugi di Libia, Libia e anche Tunisia, questi dei rifugiati di là, però non c'è rispetto per loro e ancora torturati per tante cose, per anche delle maseri, l'almeseri, se lo ricordate tutti le persone de qua in Italia, di fatto almeseri è arrivata con Italia, è andata tornato indietro. Sono conosciute qua, grazie mille dei rifugi di Libia, se vuoi ce l'hai il foglio per lasciare tutti per qua oggi, grazie mille. Ok, grazie mille. Abdi, come raccontato, è un attivista di Refugees in Libia. Refugees in Libia, appunto, come dice lui, è un'associazione che nasce direttamente nei lager libici e si occupa appunto di aiutare tramite un hotline tutte le persone e tutte quelle persone che chiedono aiuto direttamente da quei luoghi di tortura sostanzialmente. Il lavoro che fa Refugees in Libia è un lavoro gigante, tant'è che David Iambio, il loro leader, è stato intercettato da Paragon ed è stato intercettato dal governo a partire dal 23 novembre del 2023, e questo vi fa capire quanto sia grosso e importante il lavoro che stiano facendo. Abdi è il primo esponente di Refugees in Libia che si trova a Milano. Il loro progetto è grande, è importante e soprattutto è un progetto di aiuto diretto verso le persone che si trovano in Libia. Le comunicazioni con tutte le persone che si trovano nei carceri sono dirette, quindi è un progetto che secondo noi vorranno impedire e vorranno impedire che venga portato avanti da questi ragazzi qua, perché sono ragazzi che hanno provato direttamente sulla loro pelle cosa vuol dire un carcere in Libia. E quindi è un progetto che va sostenuto, quindi siamo contenti che Abdi oggi possa essere con noi a raccontarcelo. Se qualcuno poi vuole scambiarci due parole, c'è il banchetto di Mediterranea, lui starà con noi un'oretta e mezza e magari vi può spiegare un po' meglio. Grazie mille. Grazie mille, salutiamo grazie, Abdi, grazie Francesco. Grazie Abdi. Grazie. Abdi, fra l'altro, deve andare a lavorare da McDonald's, sembra una battuta, il ma invece 25 così, aprile. Il 25 aprile. Allora, così. Arriviamo così al primo momento teatrale di POC 2025, sapete che il teatro abita da sempre questo palco, per noi i teatri sono presidi culturali, certo. Abbiamo anche un claim, dove c'è teatro... Si vive meglio, pensa te. Soprattutto nelle periferie. Sì. E allora parliamo proprio di una realtà che ha a che fare con questa zona, una storica compagnia di Milano che è stata diretta prima da Serena Sinigaglia e ora viene condotta da Arianna Scommegna, Mattia Fabris e Nadia Fulco. Realtà che devo dire mi sta molto a cuore, perché adesso faccio un po' di autobiografia. Noi Ninas Drag Queens siamo nate proprio lì, in un freddo dicembre del 2007 al Teatro Ringhiera, teatro gestito dalla compagnia Atir. Compagnia che in realtà è una realtà che accoglie vari collettivi e che anima la vita culturale della città, soprattutto delle periferie, attraverso gli spettacoli, i laboratori, ma anche opere di arte collettiva partecipata. Per esempio, vedete appesi al nostro vecchio trabattello tutta una serie di fazzoletti. Quelli sono i fazzoletti partigiani, un'opera d'arte partecipata che hanno sfilato oggi al corteo di zona 1, organizzato proprio anche da Atir. E accendiamo un po' i riflettori sul teatro Ringhiera, perché c'è una situazione complessa. Sì. Che sta attorno al teatro. È stato aperto dal 2007 al 2017, poi il teatro ha chiuso per essere ristrutturato. È rimasto chiuso per anni. Durante il Covid. Dopo il Covid. Ma ora finalmente sta per riaprire. Davvero? Pare di sì. Ce ne parlano Virginia Zini e Daniela Rigoni, attrici e socie di Atir. Benvenute. Ciao. E amiche. Prego. Voi state sul palco, giusto? Non salite sul trabattello. Voi state qua. Buon 25 a tutti! Viva la liberazione! A tutte! Viva il 25 aprile, Virgi! Sono sì. 80 anni oggi! È vero, sono 80 anni. E visto che siamo così tanti, io volevo approfittare per darvi una notizia bellissima. Vai! Finalmente sono cominciati i lavori di ristrutturazione del Teatro Ringhiera, proprio qui dietro, in via Boifava. E finalmente l'Atir, noi avremo una casa! Beh, aspetta, prima dobbiamo passare il bando. Ma sì, il bando, però, cioè, tu pensa, no? Io me lo vedo già. Cioè, finalmente cosa? Tornerà il teatro sulla Piana. Sì. Un sacco di attività per bambini, per ragazzi, cioè, sì. Chiameremo artisti da tutto il mondo, Virgil Cirque du Soleil. No, Dani, guarda, anche meno. Ma scusami, ma Virgil, ma... Cosa c'è? Non sei contenta che finalmente dopo 8 anni sono ripartiti i lavori a Ringhiera? Ma io sono contenta che sono ripartiti i lavori a Ringhiera. Il problema è che sono ripartiti e poi si sono rifermati. Ma quando? Quando? Il 3 febbraio 2025. Ma scusa, ma sei sicura? Sono sicura, io te lo giuro. Me lo giuri? Te lo giuro. No, adesso voglio sapere chi te l'ha detto. Chi me l'ha detto? Anna Maria! Come vedete sono in linea con il numero vai. Il numero dell'anniversario di questa ricorrenza. Comunque, sono io che ha diffuso questa notizia, che purtroppo non è un sogno, nel senso che noi aspettavamo l'apertura del Teatro Ringhiera alla fine di ottobre 25 e questa data ce la sogniamo. Ce la sogniamo perché un giorno, esattamente il 3 febbraio, il capocantiere che lavorava al teatro mi ha telefonato avvertendomi che loro hanno bloccato i lavori per mancanza di retribuzione, ovvero sia questi signori hanno lavorato da novembre a febbraio senza avere un soldo. Di conseguenza il cantiere è stato chiuso. Te l'ho detto. Okay. Siccome questa è una giornata che festeggia la cura dei luoghi artistici e culturali, purtroppo la cura di questo teatro evidentemente non è stata sufficiente, perché dal 2017 è in coma, più o meno vigile, diciamo che è stato vigilato dai cittadini, qualcuno lo considerava in coma irreversibile e purtroppo è rimasto lì per tutti questi anni. Poi un giorno, esattamente il 25 ottobre, è apparso un cartello di inizio lavori. E infatti io l'avevo visto, ho mandato la foto a tutti i miei amici, vero? Ok, certo, c'era. Sì, sì. Però, Dopo questo periodo di esultanza, come detto, il 3 febbraio tutto bloccato, per cui questo teatro è purtroppo ritornato in coma. Dal mio punto di vista il problema grave. Il problema è il fatto che chi ha costruito questa cura non si era neanche reso conto del problema che stava sopravvenendo e ha lasciato che il teatro ritornasse come era prima, forse peggio di prima, perché adesso è anche desolatamente, diciamo, distrutto, le sue sale sono distrutte in attesa di che cosa? Non lo sappiamo. Per adesso è in coma e probabilmente spera di restarci, perché non vorrà essere più sollecitato da questi continui avanti e indietro. Sì, ti prometto che vedrai che succederà qualcosa, ti prometto che entro 2 mesi noi faremo, noi diremo, dire, fare, baciare, lettera, testamento, e questo è il testamento del Teatro Ringhiera. Comunque i cittadini vigilano in continuazione, come hanno fatto per i 25 aprile passati, come fanno oggi e come faranno per il futuro. Questa è la storia adesso del Teatro Ringhiera. Cioè, grazie Anna Maria, grazie. Vedi che te l'avevo detto, non c'è niente da festeggiare per certe cose, insomma. Quindi ragazze, vabbè dai, però non perdiamoci d'animo, insomma, cioè bisogna rimanere positivi, bisogna crederci, sì. Cioè comunque oggi è una giornata di festa e, sì. E Milano comunque è una città che alla cultura ci tiene, perché lei è un gran Milan. No, guarda, io lo sapevo che lo diceva, Milano è un gran Milan, che poi cosa lo dice a fare che tu sei di Bergamo? Ho capito, Virgio, appunto perché sono di Bergamo, cioè Milano c'ha tutto di bellissimo, cioè una cultura bellissima, spazi culturali bellissime, le fumetterie bellissime, i teatri bellissimi. Infatti io sono scesa dalle valli per venire qua a Milano per studiare teatro, capito? Perché su là ce le sogniamo le scuole di teatro che ci sono a Milano. Ma tipo? Tipo il Piccolo, la Paolo Grassi. No, appunto la Paolo Grassi. Michelangelo! Anche la Paolo Grassi. Michelangelo! Venite, collettivo Tucur, Michelangelo, ex allievi della Paolo Grassi. Dici un po' come va lì alla Paolo Grassi. Allora, buonasera a tutte e a tutti, buon 25 aprile! Viva l'antifascismo! Allora, noi siamo una parte del collettivo Tucur, siamo ex allievi della Paolo Grassi, eravamo in classe insieme alla Paolo Grassi e vorrei dire proprio semplicemente che la Scuola Civica di Teatro Paolo Grassi è stata fondata nel 1951 da due signori chiamati Giorgio Streller e Paolo Grassi, che avevano un'idea ben chiara di cosa vuol dire utilizzare i fondi pubblici destinati a luoghi per la collettività e non la politica immobiliaristica che privatizza tutto attuale. Quindi noi veniamo da una scuola che ha un ideale, che è quello del teatro pubblico, il teatro d'arte per tutti. Allora questa sera ci hanno chiesto i nostri compagni di POQ e di ATIR di fare un intervento teatrale qui su questo palco e noi poco fa stavamo facendo delle prove, eravamo in residenza a comporre un nostro spettacolo, a lavorare in un nostro spettacolo. E nei tempi liberi, nei momenti buchi, facevamo le prove per questo 25 aprile. Ora, eravamo tutti noi del collettivo in residenza, tranne una nostra compagna, che non poteva essere con noi perché è incinta, aspetta un bambino, anzi, una bambina. Vabbè, ho fatto un piccolo spoiler. Ora, eravamo lì proprio mentre stavamo lavorando per il pezzo sulla Resistenza, per il pezzo sul 25 aprile, e ci è arrivato un messaggio da parte sua, che adesso vi leggiamo il messaggio. La nostra compagna ci ha scritto: ciao ragazzi, come state? Vi penso. Oggi ho fatto l'ecografia. So che vi avevo detto che non avrei voluto saperlo, ma ho chiesto il sesso, è femmina, è una bambina. So che state lavorando sul pezzo del 25 aprile e io ho scritto questa cosa che vi mando. Se magari può darvi uno spunto. Mi mancate tanto, un abbraccio. Allora noi l'abbiamo letta e abbiamo deciso che vi avremmo letto questa a voi oggi. A mia nonna libera. Ciao nonna. Oggi ho scoperto che la mia bambina sarà una femmina. Mi hanno detto che dovrebbe nascere verso l'inizio di maggio. Pensa se nasce prima. Pensa se nasce proprio il 25 aprile, come te, nonna. Potrebbe essere, sai, esattamente 80 anni dopo. Vorrei chiederti come stai, ma mi limito a dirti che io sto bene. Chissà se quest'anno ci sarò alla manifestazione. Se ci vado, questo sarà il primo 25 aprile che non passiamo insieme. È strano, per la prima volta non avrò la tua mano accanto alla mia in corteo. Ti ricordi quando da bambina ti chiedevo come mai tutte quelle persone festeggiavano in piazza il tuo compleanno? Il tragitto del corteo sarà sempre lo stesso, quello che ricordi bene. Si parte da Corso Venezia, la strada piena di gente. Eppure se la penso senza di te, sento solo una strana solitudine. Mi dicevi sempre che siamo fatti di memoria e senza memoria siamo nulla. Tu hai dedicato la tua intera vita a insegnare agli altri a ricordare. Maestra, visto che domani non c'è scuola, lei che fa? Scendo in piazza. E che si fa in piazza? In piazza ci saranno tutti quelli che sono stati tuoi allievi e le tue amiche e compagne di sempre. Mi diranno sicuramente che sono uguale a te quando eri giovane. Stessi occhi, stesso sorriso. Ah, ti te sei proprio bella. Te pare tra tu nonna quando l'era giovina. Stesso stessi cavei, stesso ris. Ah, nonna, a proposito, quest'anno oltre a te non ci sarà nemmeno la Licia. Al suo funerale le hanno messo la bandiera anarchica sopra la bara. Avresti dovuto vederla. Ora toccherà a me raccontare a mia figlia di Piazza Fontana, di Pino, e ricordare, come dicevi tu, che la violenza fascista non è finita con la fine della guerra, che la liberazione non bisogna mai darla per scontata e che bisogna vigilare affinché la storia non si ripeta. Mi chiedo se riuscirò ad essere anch'io un punto di riferimento come lo sei stata tu per me, soprattutto ora che avrei bisogno io di un consiglio. Come si fa a mettere al mondo una bambina quando il presente e il futuro fanno così paura? I tuoi genitori ti hanno concepita sotto i bombardamenti. Milano era un cumulo di macerie, eppure hanno avuto il coraggio di immaginare un futuro, con la certezza che la loro bambina sarebbe nata in un mondo libero. Certo, i tuoi genitori erano ragazzi di 20 anni con un mitra nelle mani e un ideale nel cuore, ma credevano davvero possibile la costruzione di un mondo più giusto. Io, oggi, la credo possibile. Me lo chiedevo stamattina. Poi, prima di uscire di casa, ho ritrovato la scatoletta di legno che avevi nascosto sotto al letto. L'ho aperta e mi sono sentita un po' una ladra. Ho trovato il tuo fazzoletto rosso, quello fatto da te, quello che mettevi sempre in manifestazione, annodato al collo e che spiccava fra centinaia di fazzoletti rossi. Ho trovato anche una vecchia spilla del PCI. Ho lasciato tutto nella scatola. Avevo paura di rovinarli. Poi ho pensato a quando giravi per la casa con il pigiama e la collana di perle. Io ridevo e ti prendevo in giro, ma tu rispondevi: guarda che la perla, se non la metti su, la si sciupa, la meur. E allora li ho messi su, il tuo fazzoletto rosso e la tua spilla del PCI, perché se no li avrei fatti morire, come le tue perle. Ma tu mi hai sempre detto che i valori della resistenza non moriranno mai. Beh, certo è facile detto da te, nonna. Nata il 25 aprile 1945. Ti hanno chiamata libera perché quel giorno liberi lo eravamo per davvero. Alla mia bambina racconterò del tuo papà partigiano, finalmente ritornato a casa ad annunciare alla tua mamma, la sua compagna, l'insurrezione e la fine della guerra. E delle urla dalla ringhiera che gli dicevano: uè, uè, va che l'è nasciuta, l'è nasciuta, la totosa! E lui che ti prende in braccio, ti guarda e con le lacrime agli occhi ti dice: se ci amerà, libera! Nonna, nonna, alla mia bambina dirò che tu mi hai insegnato che non saremo mai davvero liberi finché alcuni popoli, anche i più lontani da noi, saranno oppressi. E ce n'è ancora tanta di strada da fare. Ma non temere, tra poco ci sarà una nuova donna a lottare insieme a noi. Si chiamerà Libera, come te, nonna. E se buon sangue e buon nome non mentono, io oggi posso avere meno paura del futuro. Grazie a tutte e a tutti. Buon 25 aprile, viva l'Italia antifascista! Resistenza! Ora e sempre! Resistenza! Grazie, grazie al collettivo Tukur, grazie a Atir. Ha provato a piovere, eh? Grazie anche a chi è qua, esatto. E resiste sotto la pioggerella. Noi incrociamo. No, ma ormai è passata. Okay, occhio, non gufarla. Comunque, no. Noi ci proviamo. Noi adesso tiriamo sul palco la band che è lì, che freme e che sta guardando come voi il cielo per capire se si può andare avanti. Nel caso ci interrompiamo e riprendiamo appena dopo la pioggia. Esatto. Allora, cosa ci aspetta? Ci aspetta musica reggae? Sì, del gran reggae. Da sempre una band indipendente autoprodotta, da sempre legata agli spazi sociali di Milano e dell'Interland. E un applauso all'Interland, in particolare da chi viene da Ro? Eccole! Allora, loro hanno abitano, sono una delle anime di SOS Fornace, è una musica che prende posizione per i diritti oltre che posizione sul palco, ci piacciono tantissimo e sono con noi i Rutical Foundation! Ancora un minuto? Addirittura ancora un minuto? Ragazze. Che non è poco! No. Cosa possiamo dire? Teo, vuoi dire qualcosa tu? Che cosa vuoi dire? Allora, io volevo testare un po' la gente di POC, magari qualcuno arriva dal corteo, insomma, fateci sentire quanto sobriamente siete antifascisti. Potete fare meglio, ancora più sobri, dai. Yes, I, per noi è un onore essere qui, davvero, l'abbiamo aspettata per anni e portiamo un po' di reggae music che da sempre, scusate. Comunque Teo, l'avete aspettato, è musica antifascista. Perfetto. Infatti, ma perché fa un po' Giamaica questa pioggerellina? Mi sono incastrato ancora di più nel cavo, raga. Tra l'altro il problema è che, capito, cioè, è questo, che non abbiamo il phon, Demetra. Dillo a me, io ho un'altra parrucca però. Ecco, io no, la mia attacca alla forte non così. Si stacca. Ci siamo? Siete state troppo poco sobrie, questo è il problema. Ci hanno punito. Foundation! Yes, I original reggae music since 2006. Here we go. Feel the reggae music, Milano. Okay. Da sempre antifascisti, antirazzisti, contro ogni tipo di colonialismo, di suprematismo. Per la resistenza qui in Palestina, in ogni posto del mondo dove i popoli vengono oppressi. Yes, I. Ok, più come le mettete le mani così. Se non avete birre o cose, si va a tempo, eh? Attenzione. Drummy, battles, general, safety, analogical, all right, bondy, digital lyrics, subliminal, direct and original, spiritual, musical, artistic, popular, some people call me king, never stop fighting a ringer, now you're sweating, a little bit, come from this agency, everything I've got, my word is so bold, let the music flow, I can hear, take my hand and follow me in a DCR foundation. Let the music start again, erase all our tribulation. Take the future in your hand, now it's time for brief decision. The time is right, no, don't be late, then can't let it down, can't let it down. Misunderstanding a result of a lack of communication. Inability to be all serious intention. Me one for love, me purpose, now my tribulation. Could you send me a crazy man? This all about ambition. A teacher worker calling me, I feel on my mission. No, yes, we no one else, just report I saw. Every day commitment, room, reform decision. No, if you can't cut it, just free me from this prison. Reload, take my hand and follow me in a DCR foundation. music star, I can erase all the tribulation. Take the future in your hand, now it's time for this decision. Don't be let them, can't let you down, can't let you down. Follow me in a DCR foundation. Wheels of the fire. Let the music start again. Erase all the tribulation. Take the future in your hand. Now it's time for great decision. Se ci sei ce lo fai un po' di rumore ora. Yeah, listen this. Lucide sbarre, rigide inviolabili, come codice a barre e numeri. La mia vita catalogata con un prezzo fissato al listino di mercato. Ho venduto la mia libertà per necessità, senza possibilità di replica. Mi ritrovo ingabbiato in un foglio schedato, ma non sono assicurato. Metta la sua firma qui in fondo e vedrà. Lasci stare inutile orgoglio e dignità. Queste sono le regole e se si applicherà. Quando inizia lo show il successo è garantito. Sono un equilibrista su un filo precario. Scade in fretta, la paga scarsa. Non c'è alternativa se non vuoi affogare alla deriva. Accetta questa sfida e chissà. Alleno le mie abilità di equilibrista. Ormai ho imparato i trucchi del più grande trasformista. Mi hanno già promesso un posto fisso. E se non cade in basso sarò il primo della lista. Ma basta una svista o un colpo alle spalle del primo arrivista. Voraccio illusionista per perdere il controllo e poi schiantarsi e ritrovarsi, sai, a mangiar polvere e terra sulla pista. Sono un equilibrista su un filo precario. Thank you. Yes, I. Rutical Foundation. Ok, la prossima canzone la dedichiamo a una delle cose più tragiche che sta accadendo ora nel mondo. La resistenza palestinese, la resistenza del popolo di Palestina ci insegna cosa significa sumud, fermezza, cosa significa davvero amare la propria terra, nonostante un genocidio loro stanno ancora lì e ci insegnano a resistere anche qui e in tutto il mondo. Questa si chiama Stay Human e prende a titolo l'hashtag con cui Vittorio Arrigoni, Vic, concludeva i suoi report da Gaza. Free Palestine, stop the genocide, yeah. Just where part do you belong? No one decide the place to born. So tell me, who has the reason? Where is the truth? The world is bigger than your point of view. Who has the reason? Where is the truth? The world is bigger, bigger than you. Yeah. You human, in this time of crisis, the human. Come and see compassion, be you human. A confrontation is a must and crucial. Do not reject it, change your perspective. Walk in the shoes of another man. So tell me, who has the reason? Where is the truth? The world is bigger than your point of view. Who has the reason? Where is the truth? The world is bigger, bigger than you. Ooh, yeah. You human, in this time of crisis, the human. Give us some compassion, be you. Of the world, someone else is the right one. Did you choose which part do you belong? No one can decide the place where to born. So tell me, who has the reason? What is the truth? The world is bigger, it's bigger than your point of view. What's the reason? Where is the truth? The world is bigger. Milano come va? Yeah, resistenti, sobri, sobri, sobrietà, dai, su via, un po' di sobrietà, un po' di più ragazzi, cioè sennò così diamo ragione a quelli, La prossima si chiama Paris Anthem. Ah, c'hai ragione. Diritti, rovesci, prova se ci riesci ad aprire gli occhi. Rovesci, diritti, non si può star zitti, l'indifferenza uccide. Diritti, rovesci, prova. prova se ci riesce ad aprire gli occhi. Rovesci diritti, siamo numeri sacrificabili. Ti sei convinto che quel che riguarda te per sempre ci sarà, ma non dar per scontato un diritto conquistato, sicuro che per sempre resterà. La storia non fa scuola, ritorneranno ancora a rubarti la dignità. Ti illuderanno un po' con nuovi falsi show che chiameranno libertà. Vittorie già sudate, quello che era conquistato su diritti e libertà. Qui si muore di lavoro, di razzismo ed esclusione. Non c'è asilo alla frontiera per chi cerca un po' di sole. Diritti, rovesci, prova se ci riesci ad aprire gli occhi. Rovesci diritti, non si può star zitti, l'indifferenza uccide. Diritti, rovesci, prova se ci riesci ad aprire gli occhi. Rovesci diritti, siamo numeri sacrificabili. Le solide certezze, le tue sicurezze possono crollare, sai. Se pensi ad un lavoro sicuro e duraturo, vedrai ti stupirai, perché così da un giorno all'altro e senza alcun preavviso, con una fredda email, ti lasceranno a casa senza neanche una scusa. It's the peace, no way. Proveranno a distarti di nuovo con superflui beni di consumo, scintillanti, ammiccanti ed inutili, bisogni indotti un po' futili. E allora dormi e obbedisci, poi produci e compra, e non tentare di fare la conta. Numeri dentro alla trappola, numeri nell'ingranaggio che ti stritola. Diritti, rovesci, prova se ci riesci ad aprire gli occhi. Rovesci, diritti, non si può star zitti, l'indifferenza uccide. Diritti, rovesci, prova se ci riesci ad aprire gli occhi. Rovesci, diritti, siamo numeri sacrificabili, oh no. Oh no. Yes, grazie Milano. E la prossima davvero, scusate, io sono emozionatissimo e quindi ho pure pezzato il titolo della canzone. Questa è davvero Pirates Anthem. Yaman, Lego. Dedicata a tutti quelli che si sentono un po' pirati. Pirati nella musica, che si autoproducono, autogestiscono. Per chi occupa e non si preoccupa. Per chi crea situazioni dal basso. Per chi prova strade alternative a quelle che ci vogliono imporre, ok? Milano, se ci siete o no, ce lo fate un po' di rumore ora! We all pirates, la vostra voce, we all pirates. We all pirates, Milano dai. We all pirates, yeah. We all pirates, again, again, again, again. We all pirates, yes I do. We all pirates on the same boat, you see me? No Babylon, un po'. These are we pirates anthem, yeah. These are we pirates anthem, yeah. Yeah, we say we all pirates without no boss, no mistress. We fight against the system and cross all boundaries. From independent years we come again. Discover love, we are music again. From we streets, we are some others, can not send others. We are the sailor, we new can fail. Long time we are waiting and fighting. Before we get, we we future and then it's time to party. We all pirates. We all pirates. We all pirates on the same boat. No Babylon, no promote. We all pirates. We all pirates. We all pirates on the same boat. Yes, my sister. Check it. My column feel the voice. If you grab on my sister, make a music reason on a line. You see the same situation. When I let you, we cross in the ocean. Make the game, make me say sometimes we lose the motto. The reason that we're a family, I believe I will stay on board. We all pirate. Milano said she say die. We all pirate. Una mano su die. We all pirates on the same boat. No Babylon, no propose. We all pirates. We all pirates. Same boat, no Babylon, no promote. Let us sing, we pirate something. Let us sing together now. From bring out the seas. Long time later, we are still fighting. Pirates on them. We must please again. Yes, sir, listen, check it now. We are rebels, we are fighters, we are musical activists. But we are parts in a deep concrete. Superheroes, rockers, we rockers, zombies, polka, bestia, nothing to the rasta. A massive DJ, the rockers and boys. Sometimes we are unemployed, a revolutionaries. We're immigrants from another nation looking for solutions. We never stop, we fight, yeah. We all pirates, Milano said you say. We all pirates. We all pirates on the same boat. No Babylon, no promote. We all pirates. On the same boat. Rastaman, it's gone Rastaman. Magic is the vibe that you feel. If you understand, they're gonna eat you fury. Bitches, reggae music, it changed my life. Went deep into my heart to strike. Go for vibrations, a message reading. Independent, no plan for money and bling. First of all, for passion, we are good family. It's the reason music make me feel a real. Not only matter of category, but living. Expressing with sight, with sincerity. Doing with best with dignity. Power to understand. Blear with music, true connection, no virtual. Check out with passion, it's natural, the cultural, original. Love, one love we are deal with, good vibes we are deal with, one world we are living. Reggae music we are deal with, love, one love we are deal with, good vibes we are deal with, one world we are living. Me not deal with every time one fist up my goodbye. Me not even want to bring darkness in my life. Me not deal with those hypocrites, got them look so nice, give them a chance. And the evil Iraqis. Music shows me right way, no matter fear of us. We travel, metal, make the people, that's my focus. So tell me, since I'm bad, poor, but love me never goes. Well, I'm out of my destiny, mad. So look at the people, but it's making all the sense. Pull it off and come again. Milano resistente. Ok, lo volete fare un gioco con noi? E allora tutti giù, tutti giù, tutti giù, tutti giù. Low, low, low, low. E poi capite che c'è un momento in cui si salta. Cioè quando si fa casino, quando lo capite, è dinamica della musica. Ma l'energia ce la mettiamo tutti insieme. La festa la facciamo insieme, noi dal palco. E voi, con noi. Yes, I, poco sobri, facciamolo davvero. Yeah. Listen this. Yes, me drummy, give me one. One fist of my good bed. Me not even want to drink darkness in my life. Me not deal with those hypocrites, got them look so nice, give them a chance. And then evil Iraqis. Music show me right way, no matter fina bus. Be travel, smile, and make the people, that's my purpose. Sometimes it's sense of outlaws, but love me never curse. I love my God, my destiny, ready for job. Salute the people, bring this radio, I'm so sister. Last part of the double check, you're out there on the thing. You see my skin, you care about blood disease. Every day people running and no evil, no why. Nobody say hello, nobody gives a smile. Somebody need to stop us, say give thanks for lucky. Love, one love we are dealing with. Good vibes we are dealing with. One world we are living. Reggae music we are dealing with. Love, one love we are dealing with. Good vibes we are dealing with. One world we are living in. Reggae music we are till tonight. Siete belli come l'antifascismo. Fatevi un applauso, amici. Rutica Foundation. Si vede in giro, amici. Il Rutical Foundation. Ciao ragazze. Grazie. Musica reggae. Evviva, ma che bellezza! Guarda com'è bello questo palato pieno di gente. Molto allora, bene. Sul nostro trapattello si sta preparando una persona che è venuta a trovarci. Ci sta molto a cuore questo intervento. Lei è Cinzia Spanò, grande attrice, autrice, attivista. È una delle fondatrici di Amleta, un collettivo femminista intersezionale il cui scopo è contrastare la disparità e la violenza di genere nel mondo dello spettacolo. Collettivo a cui fra l'altro ci si può associare. Tu con le Ninas. Noi siamo associate, effettivamente. Voi siete siamo membri Amlete. Di Amleta, sì, siamo delle amletine. Cinzia ha appena debuttato con uno spettacolo creato appositamente per l'80esimo della Liberazione, L'Agnese va a morire, tratto dal romanzo di Renata Viganò, di cui questa sera ci porta un passaggio. A te la parola, Cinzia. Cinzia Spanò. L'Agnese si ritrovò in mezzo alle case. Arrivava pedalando sulla piazza col proposito di passarla rapidamente. All'improvviso si fermò. Sulla piazza c'era un gruppo di gente. Stavano stretti, uniti e guardavano tutti da una parte. Guardavano tutti là in fondo a un grande albero nudo a cui era appeso un impiccato. Era lungo, inverosimile, pareva di legno. Aveva le punte dei piedi enormi, stese verso terra, e attaccato al petto un cartello grande, bianco. Attorno all'albero stavano 3 o 4 tedeschi e dei soldati della Guardia Nazionale Repubblicana. Ridevano e battevano il passo per riscaldarsi. Uno di essi, con un bastone, prese a dare dei colpi regolari alle ginocchia del morto, che andava in là e in qua allo stesso ritmo della campana, e gli altri in coro gridavano don, don, don. Scoppiarono degli urli acuti dalla casa di fronte, una voce disperata che piangeva, poi qualcuno chiuse la finestra, la porta, le voci non si udirono più. Uno dei tedeschi disse basta campana, e subito un milite fascista corse verso la chiesa, e anche la campana dopo un minuto tacque. La gente era sempre immobile e silenziosa nell'aria bagnata come fosse di pietra. I tedeschi cantarono un inno nella loro lingua, poi giovinezza assieme ai fascisti. Alla fine uno di essi gridò con voce alta e lacerata, quasi femminile: noi questo fare a spie e traditori, e sparò in aria una raffica di mitra. Una donna del gruppo fece un passo in avanti, si rovesciò a terra svenuta, floscia come uno straccio. Rimase là, nera, nel fango. Tutti si guardavano con incertezza, non si azzardavano a soccorrerla. Il tedesco venne verso di loro, li fece indietreggiare aprendosi un varco fra le facce bianche e spaventate. Alla fine gridò: voi portarla via, via, via, via, via! E tutti si mossero confusi come un branco di pecore. L'Agnese indietreggiò piano piano, tirandosi la bicicletta. Si infilò nel vicolo fra le case, ma prima riuscì a stento, per la distanza, a compitare la parola in grande sul cartello dell'impiccato. C'era scritto partigiano. Caro 25 aprile, cosa vuoi essere ora che sei diventato grande? Prima di tutto occorre ricordare, e L'Agnese va a morire è un romanzo che ci ricorda che cosa è stato veramente il fascismo, il nazismo e la lotta di liberazione. E ricordare anche che il fascismo assume forme diverse, e quindi anche la resistenza deve avere forme diverse. Grazie. Grazie, grazie Cinzia Spanò per aver Cinzia portato Spanò questa riflessione sul 25 aprile. L'abbiamo detto, in questi 80 anni dalla liberazione nazifascista, in questi 18 anni di POC, ci stiamo interrogando come collettivo su che cos'è e cosa vuol dire fare antifascismo oggi. E non è un caso che venga un'altra realtà che ha un grande impegno sociale a portarci delle altre istanze. Assolutamente, stanno per salire sul traballo, con questo traballo che sembra la prua di una nave. Mi sento come travolta da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto. Come la Melato, tu sarai il mio Giannini. Faccio quello che vuoi per te, Demetra. Esatto, okay. Allora, questo traballo diventa la prua di una nave su cui salgono i portavoce di Tom, tutti gli occhi sul Mediterraneo, un progetto che nasce da diverse realtà solidali, ARCI, Sailing for Blue Lab, che è un circolo navigante di Bologna, e Ship Italia, che invece opera nel campo dei diritti umani. Tom lavora per difendere e promuovere i diritti umani delle persone che attraversano il Mediterraneo centrale e per denunciare le criminali politiche migratorie dei governi europei. Hanno messo in mare da pochissimo una barca a vela, Perché? Ci sarà perché un motivo. C'è un motivo. Ci spiegano tutto Maso Notarianni, giornalista e presidente di Arci Milano, e Margherita Cioppi, marinaia e attivista. A voi la parola. Prego. Tutte le persone qua presenti, intanto grazie per essere ancora una volta spalla a spalla, cercando di non lasciare un buco. Quello che si fa anche in mare. E il mare è pericolosissimo per tutte le persone che lo navigano. In qualsiasi momento quello che sembra sereno e tranquillo può diventare catastrofico, da sempre, dall'alba dei tempi. È per questo che dall'alba dei tempi i navigatori hanno fatto un patto tra di sé, un patto che permettesse a tutte le persone di affrontare quella distesa azzurra con la tranquillità di sapere che chiunque intorno a noi avrebbe potuto intervenire per dare una mano e che noi stessi come navigatori saremmo sempre stati obbligati a intervenire verso chiunque in mare abbia bisogno di una mano. Ci sono voluti secoli, è diventata una convenzione internazionale, una di quelle che i nostri governi europei da anni si divertono a violare. L'articolo 98 obbliga qualsiasi unità che navighi a prestare assistenza a chi si trova in difficoltà. E noi abbiamo fatto 5 missioni in mare e di persone in difficoltà ne abbiamo trovate tante, troppe. Alcune non erano neanche segnalate dalle autorità competenti o da quelli che sono le preziosissime fonti di conoscenza che sono gli attivisti di Alarm Phone, gli attivisti di tutta la società civile che sorvola il Mediterraneo centrale. Loro segnalano quelli che sono in difficoltà, ma tanti questa possibilità non ce l'hanno. Li abbiamo trovati, abbiamo chiesto alle autorità più e più volte di intervenire perché siamo una barca a vela di 17 metri, cosa possiamo fare? Le autorità ci hanno chiesto di fare soccorso a queste persone che abbiamo portato da 70 miglia a sud di Lampedusa fino al porto sicuro più vicino, e per noi che siamo una barca a vela il porto sicuro più vicino è sempre Lampedusa, a differenza delle navi che sono soggette a questo criminale decreto Cutro che porta le persone dalle rotte migratorie più letali al mondo al porto sicuro più vicino che è Ravenna o Genova, le barche a vela non possono navigare fino a quelle distanze. In realtà quelli che aggirano la legge non siamo noi, non siamo mai stati noi, per una volta siamo quasi orgogliosi di dire che noi la legge la rispettiamo, e come, ci sono tante altre forze in gioco che si divertono forse a ignorare qualsiasi diritto, soprattutto quello più sacro che è il diritto ad aiutarsi e il diritto a ricevere aiuto. Siamo tutti molto in difficoltà in questi anni in cui la criminalizzazione va sempre nel lato sbagliato, però siamo marinai, non abbiamo grosse possibilità se non quelle di navigare, ed è quello che continuiamo a fare con tutti gli altri attori della flotta civile, da Mediterranea a Sea-Watch, fianco a fianco in un mare vuoto. Siamo qua stasera perché crediamo che resistenza sia anche forse questo un po', no? Cercare di fare un passo fuori da quella che è il comfort a cui ognuno di noi è sempre stato abituato, per saltare forse nel vuoto con la consapevolezza sempre che i compagni e le compagne intorno quel vuoto lo riempiranno costantemente, tutti i giorni, come abbiamo fatto oggi a Milano in corteo e come stiamo facendo anche qua stasera. Per cui partiremo presto, ci trovate a quel banchetto là che abbiamo arrabattato con tanto, tanto amore, e vi raccontiamo se volete quelli che sono i nostri progetti. Vogliamo una flotta in mare, non basta una barca a vela, vogliamo 100 barche a vela, vogliamo un mare sicuro per tutte le persone che lo attraversano. Grazie. Grazie Marghe. Io c'ho proprio poco da aggiungere rispetto a quello che vi ha raccontato, ma ho da dire una cosa, perché oggi è il 25 aprile e quello che accade nel Mediterraneo è fascismo, quello che accade negli Stati Uniti è fascismo, siamo circondati dai nuovi fascismi, e quindi oggi, domani e anche dopodomani quello che facciamo è il nostro modo di fare resistenza, ma credo che tutti noi abbiamo il dovere di fare resistenza, perché la resistenza non è stata solo una lotta armata. La resistenza è stata soprattutto una lotta di milioni di donne e di uomini per la loro emancipazione, per la loro liberazione, per costruire una società più giusta, quella della nostra Costituzione. E chiudo citando Cesare Pavese, che raccontava il periodo del fascismo, ma credo che questa frase valga ancora oggi e forse ancor più oggi. E la frase è molto semplice: chi si accontenta e tace è già fascista. Buon 25 aprile, buona liberazione e soprattutto buona lotta di liberazione da domani in avanti. Grazie, grazie Margherita, grazie Maso, grazie tutti gli occhi sul Mediterraneo. E adesso accogliamo un altro ospite che viene dal mondo del teatro, un attore, un autore, uno stand-up comedian, uno scrittore antifascista. Ecco, lo conosciamo tutte come uno dei volti più noti del terzo segreto di Satira. Per i suoi occhi. Per quegli occhi così penetranti, che scandagliano dentro. Ma tanti lo conoscono anche per i suoi spettacoli teatrali e per il progetto dei Mercanti di Storie. È un artista che ci piace, che unisce la voglia di far divertire con quella di far pensare. Tra l'altro è già stato nelle scorse edizioni sul palco di POC. Abbiamo chiesto anche a lui un pensiero sul 25 aprile e tra l'altro anche lui si lega con un po' con quello che abbiamo appena detto. Assolutamente, specialmente con Mediterranea, con cui collabora mettendo a disposizione lo spettacolo Non faccio sold out per scelta politica, con un tour a sostegno appunto e in collaborazione con Mediterranea. Lo presentiamo? Lo presentiamo. Massimiliano Loizzi, vieni! Non ti posso guardare? Vai cara. Ciao Milano! Milano, sei bella come bella l'antifascismo! Allora, io ho pensato di fare una cosa utile, quindi ho portato una lista, perché a quanto pare c'è il rischio che stiamo per entrare in un nuovo ventennio. Speriamo di no, ma nel caso ho portato una lista qui con me, che sono le 40 persone da evitare nel prossimo ventennio. Prendete nota, può essere utile. Io le vado ad elencare, voi state attenti, state attente. Bisogna evitare assolutamente nel prossimo ventennio chi tiene appeso nel box doccia i tergicristalli. Queste sono persone assolutamente malate, perché vuol dire che tutte nude e bagnate fanno questo gesto e sono persone da allontanare dalla società. Bisogna evitare assolutamente chi ti saluta dicendo "Wii! Ciao carissimo", chi dice ciao bomber, chi dice grande bomber, chi entra in ufficio la mattina dicendo buongiornissimo caffè. Perché lo fate? Bisogna evitare assolutamente chi posta le foto delle gambe stese al mare e poi sotto scrive "io resto qui, ciaone", chi dice ciaone, chi posta le foto delle vacanze a settembre e poi sotto scrive "adesso chi è che se la gode, rimanete comunque dei poveri di merda", chi dice "ma siamo ad agosto, è normale che fa caldo ad agosto, in Lombardia ci sono i tornado, ma che cazzo è l'Arkansas, che è il mago di Oz". Bisogna evitare assolutamente chi ti dice "guarda, ci parlano della crisi climatica per distrarci dai problemi seri, Matteo Salvini", chi ti dice che i vaccini contengono dei nanorobot che fra 3 anni esploderanno, Red Ronnie, chi mangia tantissimo e non ingrassa mai, maledetti, chi ti chiede se hai letto l'agenda Draghi, chi pensa che l'agenda Draghi sia un'agenda Draghi. Bisogna evitare assolutamente chi non usa il congiuntivo, chi pensa che il congiuntivo sia una malattia degli occhi di Maglio, chi finisce una frase dicendo "bisogna fare resilienza". No, c'è solo una ed è la resistenza. Bisogna evitare assolutamente chi parla ad alta voce in treno nell'aria silenzio, chi in treno nell'aria silenzio ad alta voce dice "voto Calenda perché è una brava persona", chi dice a bassa voce "voto Calenda perché è una brava persona", chi con qualunque tono dice "voto Calenda perché è una brava persona". Calenda, i Ciellini, scusate, devo aver sbagliato a scrivere, perché i Ciellini è il primo nome della lista delle persone che devono morire. I Ciellini, chi dice che che il PD è di sinistra, chi dice i femminicidi, i femminicidi, e perché nessuno parla mai degli uominicidi? Chi dice io aiuto in casa, chi si tatua il nome dei figli sull'avambraccio, ma perché lo fate? Ma non ve lo ricordate come cazzo si chiamano i vostri figli? Bravo fratello! Chi si tatua le labbruzze sul collo che baciano sul collo, maledetti! Chi dice che Pio e Amedeo fanno satira? Chi dice che Pio e Amedeo sono dei comici? Chi dice che Pio e Amedeo sono delle persone? Chi dice Pio, Amedeo? Chi ti chiede che segno sei per capire che persona sei? No! Quelli che comprano solo prodotti bio, guarda, io prendo solo prodotti bio, bio vegani, vegani bio, anticiliaci, antiglutini, anti-azimut, e li ordino tutti su Amazon, e se non arrivano in tempo io dico, oggi dico di merda, ma vuoi lavorare o no? Quelli che vanno alla manifestazione per l'ambiente ma lo fanno col SUV e lo parcheggiano dietro l'angolo così non li vede nessuno, chi usa la parola nazi vegano? Cruciani! Chi dice... guarda, chi dice la questione della Palestina è molto complessa, quindi non è complessa, è un genocidio. Chi dice, la Meloni, politicamente non sono d'accordo, però va detta che è una politica molto intelligente. Chi dice, la Meloni, però è l'unica politica coerente. Chi dice, la Meloni, va bene, è di destra, però io due bottarelle gli darei. Autocitazione. Chi fa battute sui meloni, chi fa battute, i fruttivendoli che fanno battute sui finocchi, basta! Quelli che si lamentano di quelli che si lamentano, quelli che fanno gli inchi lunghissimi e infine, ovviamente, io, ora e sempre, resilienza. L'ultimo nome della lista è un nome, come dire, un nome un po' più complesso. E vado a leggere, leggo a memoria, mi piace farlo spesso di leggere a memoria. Negli ultimi, è un grandissimo nome che andrebbe eliminato, direi, dalla faccia della terra, se non fosse brutto dirlo, ma ahi noi è così. Negli ultimi 30 anni ha proliferato una certa destra fascista, razzista e omofoba, che ha proliferato, ovviamente, stava a sentire, grazie a una certa sinistra che è stata lì, è restata a guardare e non ha fatto niente. Ed è una destra che ha continuato in modo incessante a sbraitare contro il politicamente corretto, contro i diritti civili, contro la cosiddetta cultura woke. Ci ha sfrantumato i coglioni in modo tale che c'è molta gente che quasi sembra che ci si debba vergognare di essere pacifisti, progressisti, antifascisti, perché hanno usato sempre come arma la presunta superiorità morale della sinistra. Ebbene, io sono qui, ma io modestamente parlando insieme a tutte e tutti voi, sono qui per rivendicare con tutte le mie forze la nostra superiorità morale, perché noi, io e noi tutte e tutti siamo moralmente superiori di qualunque fascista, razzista, sessista, omofobo, macista o patriarcale che sia, senza alcun dubbio, perché noi siamo moralmente superiori di chi picchia, odia e offende e uccide quotidianamente le donne solo perché sono donne. Siamo moralmente superiori di chi picchia, uccide, odia e offende quotidianamente le persone omosessuali solo perché sono tali, o le persone di un colore della pelle leggermente diverso dal proprio. Noi siamo moralmente superiori di chi lascia morire in mare, di chi respinge, oppure non fa niente, oppure se non muore in mare dopo qualche settimana in quel lager della Libia, persone che cercano una speranza migliore, di chi giustifica tutto questo senza fare nulla, lasciando che accada. Noi siamo moralmente superiori di chi giustifica il razzismo, il sessismo, l'omofobia con scuse da bar, chi si inventa stronzate sul politicamente corretto semplicemente perché vuole la libertà di avere quel cazzo, di dire quel cazzo che gli pare, quando gli pare, e senza doversene stare a preoccupare, incurante del fatto che quelle parole colpiscono sempre e solo le stesse minoranze. Io sono insieme a tutte e tutti voi e mi sento moralmente superiore di chi non fa nulla per impedire tutto questo, con una banale, banale quanto secolare scusa che da soli non possiamo fare nulla. Non è vero, sono le scelte individuali a formare le scelte collettive, e senza le une non ci sarebbero le altre. E permettetemi di dire che se noi un giorno vinceremo non sarà distruggendo ciò che odiamo, ma combattendo per quello che amiamo. E questo l'hanno detto a Star Wars. La mia bimba, la nostra meravigliosa bimba, la nostra piccola bimba, qualche giorno fa mi ha chiesto: papi, ma come facciamo a cambiare il mondo che è così grande, noi che siamo così piccoli? Io da bravo padre di famiglia l'ho guardata negli occhi e le ho detto: chiedi a tua madre. Dopodiché le ho detto una frase che è diventato il mantra della nostra famiglia: un pezzo alla volta. Un pezzo alla volta, per tornare a credere che un altro mondo sia ancora possibile. E questo qui è un meraviglioso pezzo di quell'altro mondo possibile. Ora e sempre Resistenza! Grazie! Milano è antifascista! L'Italia è antifascista! Grazie e buonanotte! Cioè, buona serata, insomma, io vado a dormire. Grazie! Massimiliano Loizzi! Grazie! Grazie, caro, ciao, ci vediamo di là. No, ci vediamo non di là, ci vediamo anche domenica 18 maggio a Milano, Santeria Toscana, con Fabule, monologo sulla disparità di genere. Grazie ancora Massimiliano Loizzi. Ma adesso torniamo al ritmo, sebbene sobrio, come si diceva all'inizio, Quartetto d'Archi, tornano sul palco di POC per farci moderatamente ballare le Faxia. Non so se ve le ricordate, sono state con noi 2 anni fa e le abbiamo rivolute, militanti transfemministe che uniscono punk, tecno e psichedelia. Più sobrie di così, ragazze. Tra l'altro, a proposito di sobrietà, stasera durante un pezzo registreranno il videoclip, quindi ci raccomandiamo con voi di tirar fuori tutta la sobrietà di cui il popolo di POC è capace. Ragazze, le Faxia! Is a landscape.

Alexia. Ah. Ah, come state? Bene? Grandi. Stamattina ci siamo svegliate davvero con un gran bisogno di esprimere e comunicare tutto il nostro dissenso verso questo forte clima repressivo espresso dal DDL sicurezza. Proprio ci siamo svegliate con questo forte bisogno, perciò abbiamo pensato di scrivere un pezzo. Abbiamo scritto un pezzo e lo suoniamo per la prima volta qui su questo palco. Quindi siamo un sacco emozionate, ma anche veramente innanzitutto siamo, come avrete notato, molto poco sobrie. E voi? E in secondo luogo, quello che ci interessa esprimere con questa canzone è un concetto molto semplice che si può sintetizzare in un semplice numero. Indovinate come si chiama questa canzone? 1, 3, 1, 2! Milano è antimilitarista. Non vi abbiamo detto una cosa, gliela possiamo dire, Beh sì, anche perché vogliamo il vostro consenso. Durante questo pezzo il nostro videomaker Jason, meglio detto Jennifer ovviamente, sta girando il videoclip, sì. E quindi tutta la bellissima vibes che ci avete trasmesso sarà per sempre in un documento che andrà al di là di noi, di noi. Grazie, grande Jennifer! They want your time. Fuck fast fashion! Yes. To believe in gold, a raider. Trust in people. I don't need your protection, 'cause I have my own reaction. Do you need their opinion, or do you have your own vision? I can choose your reason. Yes, I believe in you. Mi dicono produci, ma io produco solo sangue e lotta. Dai, raccontami del tuo stipendio, come se mi importa. Questo ciclo sta tremendo, dove si cerca la svolta. Timbra il cartellino, bravo, e poi da capo un'altra volta. Cane mangia cane, mordo la moda al padrone. Se voi vedete i numeri dove vedo persone, scelgo d'essere libera seguendo una passione. Con la testa posso uscire da ogni forma di oppressione. Ma prima ti rubano il tempo, poi quello in cui credi, fino a che sei vuoto dentro. Balla il tormentone, segui il trend del momento. Fai un video che sorridi, ma lo sai che stai morendo. Qual è il prezzo del tuo tempo? Che non è infinito, un valore lo ho di certo. Questi mi dicono che mi accendo, ma stacci calma tu, mentre chiami si sta autodistruggendo. Don't make a free, but don't remove a slave. Diet, object, beauty, shave. So don't make a free, but don't remove a slave. Go around, baby, go around, baby, go around. Stop a rapper, really matters. Let's go, baby, let's go, baby, let's go. Stop a fight. Vendono le cose, pensiamo che le cose, poi siamo tutto quello che abbiamo. Cose, tieni di le tue cose, non voglio le tue cose, non siamo quello che possediamo. Antifasciste sempre. Nessun decreto anti-rave potrà fermarci. Occupiamo le strade, occupiamo i luoghi abbandonati che sono stati privati di una vita. Occupiamo e suoniamo, suoniamo e uniamoci, uniamoci tutte e tutti, perché in un paese come quello in cui viviamo, in cui lo Stato determina i corpi delle donne criminalizzando la GPA, in un paese in cui il pensiero patriarcale è ancora un pensiero fortemente dominante, in un paese in cui continua ad esserci una forte diseguità salariale tra uomini e donne, noi intravediamo un unico scenario possibile ed è lo sciopero globale. Lotto, boicotto, sciopero. Lotto, boicotto, sciopero. Lotto, boicotto, sciopero. Lotto, boicotto. Lotto, boicotto, sciopero. Lotto, boicotto, sciopero. Lotto, boicotto, sciopero. Lotto, boicotto, lotto sempre. Grazie per amare queste tre piccole povere punk a best. Grazie raga. Sfruttiamo il nostro ultimo. Adottateci, ci volete adottare? Eh? Volete salutare Poppy? Poppy la faraona! Poppy! È lei che ci dà la cassa dritta, quindi dobbiamo davvero ringraziarla, perché è la nostra, diciamo, fonte di salvezza a volte, la cassa fonte dritta. Fonte di tecno. Fonte di benessere, fonte di wellness. Esatto, la fonte di armonia. Raga, noi vi dobbiamo salutare perché siamo arrivate... Esatto. Ma mica ce ne possiamo andare senza salutarvi? È una, sì, certo. Facciamo un altro brano... L'ultimo, vabbè, noi ormai, cioè, suoneremo ad oltranza, ma è un palco pieno di artisti, artisti si devono esprimere tutti. E vogliamo lasciarvi con un pensiero, con una riflessione, perché credo che sia importante in un giorno come oggi, 25 aprile, la festa della liberazione della resistenza, ricordare che la liberazione è un impegno costante. Quindi noi abbiamo una grande responsabilità, è quella di smascherare e decostruire e distruggere queste nuove forme di fascismo che stanno costruendo muri, muri di aggressività, di guerra, di violenza. Perché a noi l'unico muro che ci piace è il muro di... Grazie Milano, grazie VOQ, grazie a tutte e tutti. Che la lotta continui. Che è un paese lontano e vicino da me. Sgancio i missili e bombe su scuole. So ciò che un popolo e nulla si muove. Mi sento sopraffare da un pensiero atroce. Rappresaglia su di un popolo che non ha voce. Dividi e ti impera. Chi tace non si schiera. Chi prega alla chi spera. Chi invece va in galera. Perché difende la libertà di un popolo e non si piega a un dittatore senza scrupolo. Sradicheremo il colonizzatore come l'ederà. Noi canteremo Palestina libera. Fire! Raga, sulla nostra pagina Instagram fino all'8 di maggio sarà ancora possibile acquistare Muro di Casse Remix. Tutto il ricavato andrà a Gaza Freestyle e Woman with Gaza. Stiamo raccogliendo un po' di soldi grazie alle vostre donazioni, quindi continuiamo a farlo, continuate a farlo, è un gesto concreto. Grazie ancora P.O.Q. Ciao a tutte e tutti!